491. Anguilla arrosto. Potendo, ho preferito sempre le anguille di Comacchio, che sono le migliori d'Italia, se non le superano quelle del lago di Bolsena, rammentate da Dante. Quando l'anguilla è grossa e si voglia cuocere allo spiedo, è meglio spellarla. Tagliatela a rocchi lunghi 3 centimetri e infilateli tra 2 crostini con qualche foglia di salvia oppure di alloro, se non temete che questo, pel suo odore troppo acuto, vi torni a gola. Cuocetela in bianco a fuoco moderato e per ultimo datele una bella fiammata per farle fare la crosticina croccante. Per condimento sale soltanto e spicchi di limone quando si manda in tavola. L'anguilla mezzana, a parer mio, riesce più gustosa, cotta in gratella con la sua pelle, la quale rammollita con agro di limone quando è portata in tavola, può offrire succhiandola un sapore non sgradito. Per condimento sale e pepe soltanto. I comacchiesi, per la gratella, adoperano anguille mezzane. Le spellano se sono un po' grosse, le ripuliscono soltanto se sottili, le inchiodano con la testa sopra un asse, le sparano con un coltello tagliente, levano la spina e così aperte con le 2 mezze teste le mettono in gratella, condite solo di sale e pepe a mezza cottura. Le mangiano bollenti! L'anguilla richiede nel pasteggiare vino rosso ed asciutto.